sono mi. Buonasera Carlo. Ciao Carlo, sei più basso del solito oggi, come mai? Perché non sono a casa. Ah, kappa, stavo preoccupando, la tua antenna sta funzionando male. Tutto bene? Sì, sto provando dalla macchina con un portatile, ovviamente collegato con la base magnetica. No, va bene, sei un po' più basso del solito, comunque va bene. Non problemi, tieni conto che non sono a Sassari, quindi va bene. Infatti da ieri che trovavo così, anche andato a lavorare, ma non c'era nessuno in radio per poterlo provare, ecco qua. Stavo sentendo la partita e ovviamente mi sono fermato. Ma il K se cambia radio, vediamo un po' che questo è il Galaxy, un po' più sordo, diciamo, come segnale rispetto al K. Adesso comunque aspetta un attimo. Prova a parlare con questa. 1, 2, 3, consistenti. Vabbè, da casa tua arrivi 9 abbondante, qua sei Santiago 7, comunque ti va bene, eh. Eh beh, considerato che sono in macchina, mi sono fermato adesso in via Mattino. Via Mattino, dove via Mattino? A monte, alto. Allora, dopo via Luna e Sole, la via che giri, dove c'è di piccola per andare in via Palestina. Ah, ho capito, c'è un attimo le regole stazionarie. Ok, mi ascolti bene, sì. Qua arrivi con massimo segnale sia di Santiago che di radio. Vabbè, la mia radio non fa testo, è sempre la stessa, non ci sono problemi. Segnale già è buono perché non sei molto distante da me. E spero così di poterla utilizzare a volte anche andando a lavoro da Sassaria Larghero e capito, e molte volte faccio il servizio esterno così metto in macchina perché qualcuno riesce a parlare sempre che riesca ad arrivare da Larghero. Ma a me Larghero mi arriva benissimo, mi arriva fortissimo. Ah, tu lavori in aeroporto, giusto, con Alessandro, no? Sì, esatto. Sì, vabbè, Alessandro si occupa di altro, tu ci avrai altre mansioni. E da tanto che non lo sento, se lo vedi salutamelo, dire tanti saluti da Claudio Sparviero. Lui già sa anche la mia sigla da radioamatore, quindi già ci conosciamo. Esatto, lo dovrei vedere nei prossimi giorni, io rientro martedì perché ieri ho fatto la notte e oggi sono libero e sono giorno di riposo, quindi perché non lo fai la notte per portarmi più riposo. Sì, beh già li ho fatti i turni, fatti così. Quando poi smonti c'hai sempre qualche giorno di riposo. Va bene, non problem, ok. Quindi sei via Mattino, sì, praticamente sì, ho capito. Io sono un po' più su di te, un po' più in alto di te, però diciamo linea di massima non sei distante. Ho capito. Mi sono fermato giusto per parlare un attimo perché avevo accompagnato mia figlia e me ne stavo rientrando a casa, capito? Poi non so se portandomi senti ancora in mezzo ai palazzi o meno. Beh, non dovresti avere problemi, c'è un po' di preparazione, visto che il tempo è un po' così. No, io ero qua in stanza, mi stavo guardando la partita, ero la mia TV privata. Adesso è finito il primo tempo, quindi lo troviamo un po' che c'è in radio, no, come al solito, sempre pochissima gente, io accendo tantissimo, tengo sempre acceso, ma non è che ci sia tanta gente. Ho capito, non è come 20 anni fa, dove accendevi qualcosa. Io stavo accendendo in radio, interlati 1-0 e sarà da poco, cioè il primo tempo da poco, la Lazio stava cercando di pareggiare, ho sentito, ma adesso vediamo il secondo tempo se riesco, me lo guardo anch'io a casa. K, chi è che vuole entrare? MC60 schiacciano, però evidentemente no, non sono accorti che stavi parlando. Va bene Carlo, sì, anche io adesso mi guardo il secondo tempo, poi spengo tutto. Avanti, il break per il controllo. Sì, il segnale è fortissimo, sì, sul 9 più 30, la radio è un pochino satura, evidentemente stai caricando troppo. Sembra meglio, ma è sempre satura qua. A quanto ce l'hai il microfono? Sì, è migliorato tantissimo, però io sento sempre questa leggera saturazione. La radio è molto chiara, no, non ci sono problemi. La radio è chiara e va bene. Non ti do 5 perché è leggermente satura, però 4 pieno te lo do. Vediamo un po' Carlo se ti ascolta meglio di me. Buonasera Claudio Muros, Comunicata, io ti sento abbastanza bene, un po' la radio si sente un fondo, però diciamo il segnale qua, io sono un po' tantilino in macchina, mi arrivi con Santiago Vicente. Hai sentito qua? Ascolta, prova a attaccare direttamente, cioè solo con il watt della radio, vediamo se migliora. Sembra proprio un carico d'ingresso sull'amplificatore che sta creando questo problema. Io riesco a sentirlo, magari uno mi sente qua, perché l'antenna che ho, la magnetica non è... Sta parlando Carlo. Che ho potuto recuperare al volo. Non arrivi a muro se Carlo. Sì, claro, adesso va molto meglio, sì, quindi è proprio un disaccordo tra l'amplificatore e radio che ti crea questa leggera saturazione, però ripeto, la modulazione è abbastanza chiara, nel senso che non è che ti porta via tutta la modulazione, però c'è questa saturazione sotto, capito? Mentre invece senza amplificatore non ce n'è saturazione, a te? E qualche incompatibilità, magari qualche disaccordo, beh io così l'avevo preso, mica glielo messo io la lampadina. Io sono sempre contrario a cambiare lampadine alle radio, tre volte che ho comprato qualche radio che mettono lampadine non originali, colorate eccetera, le tolgo e cerco di mettere quelle che ci vanno. Quella era così, penso che c'erano forse dei led, qualcosa del genere, però il funzionamento era abbastanza efficace, diciamo, poi chiaramente essendo radio vintage, essendo radio vecchie, c'è sempre qualcosa da fare. Bene, sono contento, vai, falle andare con le radio che sono, vanno benissimo, anche quei microfoni, usali che sono tutti nuovi, vanno bene. Carlo, mi dispiace che Claudio non ti ascolti, riprendi. Allora, io riesco a sentirlo, adesso sto spostando, sto salendo un pochettino più in alto per vedere se lui riesce a sentirmi. Adesso sei salito da 7 a 9 più 10, quindi non so se ti ascolta. Aspettate un attimo, mi sembra di aver registrato un break e dopodiché io vi lascio però, Ci sono anche troppo in radio, di solito entro a salutare e basta, ma visto che è entrato Claudio mi sono trattenuto 5 minuti. Vediamo un po' chi è il break avanti. Buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. Dove sei tu? Dentro la grotta. Perché dentro la grotta? Sì, Santiago 9. La radio un po' strana. Sto usando un'altra radio. È un'altra radio che è attivata da 2 watt. Santiago 9, da 9 più 25 che mi arrivi c'è Santiago 9, cioè a perdere così tanto mi sembra un po' strano. Va bene, comunque arrivi anche tu, ciao, buonasera, c'è Claudio Di Muro, c'è Carlo. Io vi lascio, vi saluto, buon piacere a tutti e ci sentiamo alle prossime. Ok, Claudio, saluto a casa, babbo, mamma, Ottavio, a tutti. E ci sentiamo, ciao anche a Gianni, ciao anche a Carlo. Il cambio per te, Claudio, vi lascio, buona serata a tutti, ciao ciao. Dai, io saluto a Claudio, gli voglio rispondere. Sto usando un apparecchio omologato con 3 watt. Praticamente quello stato le base della Intec. Ciao a tutti gli altri amici, io Claudio ti ascolto bassissimo, ma tutto basso basso. Allora va bene già, va bene 3 watt, ciao, buonasera. Entro io ti mando in dubbio. No, Giovanni, che radio, ciao. Ciao a me. Sì, io continuo a sentirti, adesso sono salito un pochettino per vedere se riuscivi a sentirmi, spero di sì. Gianni, buonasera anche a te. Ciao Carlo, da dove moduli? Io modulo da Sassari, adesso però sono in macchina. Ah, scappa là. Francesco, ti sentiamo bene. Guarda, adesso io sono salito su a Monte Bianchino, praticamente sono dietro il serbatoio. Dove ci sono, dove c'è il parcheggio delle querce, di fronte alle querce, di lì. Se ti metti lì prendi tutta sassa. Infatti mi stai arrivando 9:30, Carlo, sei di fronte a me proprio. Comunque io faccio break, se mi fate entrare. E Claudio da Muros. Ehi, Roberto, buonasera. Sì, buonasera a tutti, e io ascolto tutti comunque qua. Ciao Claudio Muros, Claudio Torre di Controllo, ciao Carlo e ciao anche Gianni. E qua c'è Carlo che poi arriva più forte, a parte Claudio, vabbè. E i rapporti sono 9:25, Carlo, Gianni quasi 9:20, 9:15, Muros 9:10 e chi c'era l'altro? Ho dimenticato qualcuno. C'era Claudio, però ha chiuso. Sì, sì, no, l'ho nominata Gianni, cosa ti ho detto? Quasi 9:20, tu 9:15, Claudio di Muros ho detto 9:10 abbondante, e tu Carlo arrivi 9:25. Bene, me la sto provando un portatilino collegato con l'antenna base magnetica e presa a di sigari, però diciamo che può andare bene. Oh, sta andando bene, ok, facciamo venire prima il più lontano e poi riprende Gianni. Avanti Claudio da Muros, non c'è radio. Segnale 9:15, radio 0, no, proprio quasi non ne hai, ti capisco ma è troppo bassa. Ti stai mangiando la radio o ti sei attaccato qualcosa, non lo so, ho qualche problema di microfono, sei troppo basso di radio. Vai tu Gianni. Io sono entrato solo per salutarvi, dai, sto andando via e devo uscire adesso. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, Robè. Forza e coraggio, non ti dico altro. Vabbè, purtroppo bisogna andare avanti, dai, ok, grazie comunque. Gatta, gatta, dai, buonasera a tutti. Ciao, ciao Gianni, alle prossime, ciao. Guardici per me, dai, ci sentiamo alle prossime anche per me, ciao, ciao. Ciao, ciao, siamo qua comunque, quando vuoi entrare. In sottofondo mi sto guardando la partita, sta vincendo l'Inter 1-0, è stato adesso il secondo tempo. Sei sempre di culo, comunque sta vincendo. No, non l'ho vista, l'ho sentita quando stavo rientrando con la radio, poi dice sul rigore, su un fallo di Isai, così mi hanno detto. Avanti a te Muros, fammi capire che cosa c'hai di problemi e poi riprende Carlo. Un po' più forte, anche se sei bassino di radio, segnale poco più di 9:10, poco fa le 9:15. Non puoi accarlo col microfono, però sento un leggerissimo ronzio sotto. Non vorrei magari alzando l'amplificazione che magari deteriori anche il resto. Avanti di nuovo. Così così è un po' migliorato, ma non è eccellente, dai, ti capisco quello che dici, però non sta spingendo con la radio, probabilmente c'è qualche cosa che non gli permette di rendere quello che dovrebbe rendere normalmente. Ok, facciamo riprendere a Carlo. Avanti tu Carlo. Sì, Claudio, adesso la radio ha anche migliorato, più chiaro, il segnale è sempre qua, mi arrivi forte, Santiago di 9:20, 9:30. La radio ha migliorato rispetto a prima era molto debole. Va bene, dimmi Carlo dove sei arrivato tu? Io adesso sto scendendo, diciamo, dalla strada, anche dal serbatoio di porta all'uscita della strada di Osi, non c'è vista la stampa, dove c'è la fermata dell'autobus. Cioè, scusa, tu stai andando in direzione di Usilo o stai rientrando verso Sassari? Sto rientrando verso Sassari. Quindi hai fatto le querce, le hai superate le querce? Usilo, là tu hai girato nella parte alta, ho capito. Pensavo arrivassi più forte però in quella perché sono abbastanza vicine, sei 9:15, pensavo che fossi più lontano. E considera che ho portato questo, sono dove c'è la stazione ecologica, capito, dove c'è quello slanto. Adesso sei 9:20, no, la radio è bella chiara, niente da dire, però probabilmente non spinge, sarà un watt di potenza, cosa tira fuori, che apparecchio è quello? È un Albrecht 2990 e penso abbia 3 watt. Ma è diventato la cosa, la pila è quello? No, adesso sono legato con la... Sì, ma c'ha la possibilità di metterci le batterie, le filo quella? Sì, esatto, anche ho fatto batterie, no, quella di radio danno massimo 3 watt, ma esagerandomi, perché non glielo permetterebbero l'alimentazione arrivare a 5 watt. Infatti con 3 watt diciamo sta andando anche abbastanza bene. Sì, a voglia, io ti ascolto perfettamente, siamo molto vicini, dai, in linea d'aria saremo forse ne è un chilometro e mezzo. Io sono rientrando a tante, insomma, incrocio con la strada tele. Sì, ho capito, no, io sono più in giù, dai, ma siamo vicini, dai, le antenne probabilmente si vedono, la tua con la mia. Io sicuramente ti sto arrivando a bomboletta. siamo abbastanza vicini, da qui c'è un'antenna base, un'antenna con un rendimento molto molto migliore rispetto a quella che potresti avere tu. Avanti Muros, se ci servate un colpo. Okay, e adesso sei rientrato tu sulla tua voce, no? Ma è quello che stavo utilizzando prima o quello che usi solitamente con quella radio? No, no, volevo capire quello, perché avevamo fatto delle regolazioni l'altro giorno, perché se lo rimetti al 9 come eri col coso, ho detto c'è tutto. No, no, ti ascolto benissimo, va bene, ti stai aiutando, sei quasi 9:20 da parte mia, sicuramente da cosa arrivi lo stesso altrettanto bene da Carlo. No, via Carlo Felice, hai detto bene, via Carlo Alberto è giù, Piazza Italia. Esatto, Carlo Felice. Sì, sto girando praticamente dove c'è la Lidl adesso. Sei a pochi, attaccato da dove sono io più o meno. La radio ti riprenderà fuoco, sicuramente. Ma sei arrivato. Se riesco a vedere un pezzo di... Sì, 52esimo e 51 secondi in questo istante. Ok, io non l'ho visto il primo tempo, sto cercando di guardarla, con sbirciarla con l'occhio, sono con il telefonino, vediamo un pochettino. Dai. Ok, avanti di nuovo a te Muros. Sì, si può sentire, ma si sta con la mia stagionaria, si non lo sento. No, qua era vicino a me, 9:60, stava arrivando, quasi a fondo scala, beh. Ok, vediamo ancora se Carlo ci ascolta, avanti Carlo. Allora, io Claudio da Muros lo sento, e lui molto probabilmente no, perché adesso sono nei palazzi, e quando è arrivato alla rotazione via Lunastone, questo è il bullying. Addirittura 9:35, sì, cavolo. Io sono aperto per quella zona lì, perché poco fa eri al centro ecologico e non eri così alto come sei adesso, le distanze è più o meno uguale. Sì, adesso sono praticamente all'incrocio dove c'è la rotatoria che ti fa dare via degli astronauti. Sì, sì, ho capito, ho capito. No, no, sta arrivando 9:30, considerando che sei in macchina, ma c'è un'antenna esterna nella macchina. Sì, questa è magnetica al centro stesso. Stai modulando con un microfono separato dall'apparecchio o con il PTT dell'apparecchio? Il PTT dell'apparecchio sto usando, però non l'ho provato. No, no, sta andando benissimo, a parte mia il segnale è forte. Ok, di nuovo a te Claudio da Muros, avanti. Sì, si può sentire, da me è sopra il basso, è un po' più forte, ma sicuramente è nel punto dove si trova il problema. La pulizia a fare, ci sono la radio e vediamo che non c'è la sua. acceso io l'altra notte, visto c'era dei collegamenti, c'era quello di Guadalajara in Spagna, stava facendo un contest, io ero numero 79, lei sicuramente era un radioamatore, stava facendo qualche diploma, e sono arrivato sino a 104 ascoltando, mi ha risposto, gli ho dato il numero denominativo di SW, ha voluto, eccetera, eccetera, era locato da dove stavo trasmettendo, eccetera. Sicuramente era un radioamatore comunque. Sì, banda laterale, canale 15 se non sbaglio, una cosa del genere. Sì, sì, può essere. No, perché io di solito mi ascolto che fanno il contest di super frequente a 0, che è 555 e 17680 qualcosa, con un punto di lo faccio tutt'altro, anche se non più a questi contest, perché sono quello che non capisco, perché l'ho detto, però non conosco le norme loro, le regole, capisco che è uno di bacino, capisco. Altrimenti mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe divertito con l'altra radio, con la nuova, quindi... Certo, certo, no, poi l'altro giorno ho ascoltato l'altra notte e non mai successo con la Mantova senza accordatore diretta, due radioamatori, uno di Oristano e l'altro di un paesino a Suni, mi sembra che si chiami, una cosa del genere, ci sono passato del vicino, ma sei in mezzo proprio a niente, eppure arrivavano oltre 9 qua, una cosa eccezionale, infatti non riuscivo a capire come mai li ascoltavo io, quello stavo facendo collegamenti con il resto dell'Italia, che io ascoltavo tutto con quelle. Questo stava usando, uno c'aveva 300 watt, un'antenna, una loop, una V, come si chiama? Fa Napoli 80, un dipolo rotativo, stava usando, poi sono andato anche sul proprio sito dove c'è le attrezzature, non è una grossa stazione, uno c'ha un 7300 e l'altro c'aveva un'altra cosa, ma niente di importantissimo, le antenne non erano granché, però cavolo, se arrivavano qua riusciva a sentirle bene tutti e due. Sì, può essere bene, l'immagine è una cosa allucinante, che quando fanno un po' di carte, insomma, la buona, perché sicuro che non ti arrivano, capito, perché devi cominciare a ascoltarli, capito, io purtroppo per quelle cose sono scelto, non ho mai sentito nulla del Rizzano, né con l'altra zona che mi hai detto, capito, perché sono negativo, essendo aperto anche per il mio, per il mio, però per un Rizzano, per le cose non ho mai sentito nulla proprio. No, sto parlando in 11 metri, io sto parlando in 40 metri, ma è successo di ascoltare i 40 metri in diretta con posti così vicini, perché siamo a circa 100 km Oristano in linea d'aria e fai 150 a quel paese Usini, mi sembra che si chiama, però ti vedete c'è tutto il genere argenti, tutto il Limbara, prima di arrivare a me non lo fai, perché lo skip di quel tipo di frequenze è molto, molto basso, per cui arriva a lunghissima distanza. Non ho capito come ho fatto ad ascoltarli, ma non per un minuto, qualche ora, poi alla fine ho spento, l'ho sentito perfettamente tutto finché ho avuto voglia di ascoltare, e non credo che la propagazione però. Sì, questo è vero, questo confermo, lui 40 e 80 metri sì è possibile, perché io una volta in 80 ho sentito dei radioamatori del Campidano che stavano parlando, mi pare che la frequenza era, mi pare, 3630 MHz, la frequenza lì era, in maschera bravo, ero ben quindi. Sì, adesso facciamo riprendere anche a Carlo eventualmente. Avanti Carlo, ci sei ancora? Che avanti? Sta parlando, non ho capito cosa sta dicendo. Non ti capisco, cosa hai detto? Ah, stai andando a casa, Santiago 9, c'è questo passaggio, la radio però era un po' sporca. Adesso ti sei sollevato, 9 più 10 sei arrivato. Ok, no. Vabbè, comunque se vuoi rientrare a casa siamo qua in questo canale, canale 10, se ne hai voglia. Siamo qua, se è un piacere continuare il questo. Vai Claudio Muros. Sì, saluto anch'io. Carlo, allora, quando vuoi rientrare, mi fa sempre piacere, Carlo, mi ha fatto piacere che ti ho sentito e alle prossime ci sentiamo, quando vuoi entrare noi siamo qui sul 10 in QSO, e quindi Roberto. Già siamo abbastanza vicini con Carlo, arriva fortissimo, siamo in area forse neanche un chilometro. Sì, ma è nuovo il coso, il nuovo entrato nella 27, quindi. Allora mi ha detto, chiedo conferma se sbaglio, che lui era, modulava la Bonorma per tanto tempo e adesso è rientrato per questioni di lavoro, si è stabilito a Sassari, si è stabilizzato qua a Sassari e sta usando una, mi sembra, se non sbaglio, mi ha detto una boomerang, un'antenna diciamo non grandissima, però siamo molto vicini, io l'ascolto a bomboletta, qua arriva molto forte. ok, adesso aspettiamo che rientri a casa sua, perché era nel cortile di casa sua, e poi ci dirà qualcosa di diverso da quello che ho detto io, oppure confermare quello che ho detto. Sì, se fosse nel caso io ero con controllo, per come mi ascolta dalla stazione fissa, capire che con la radio c'ha i suoi annetti, per cui non si può pretendere di avere una radio efficiente come quando erano così, ogni tanto per farla camminare già va bene, dai. E questa anche tradizionale adesso va più che bene, dai. E quella che ha messo, che ha pubblicato su internet, è questa radio pace che state usando di prima. Sì, grazie, uno a uno, un momento. Aspetti. Sono Carlo, sono rientrato a casa e niente, Claudio Muros adesso come va? Mi senti meglio? Ma non eri tu, tu sei 9.30 passati, 9.35 sei qua, non c'era qualche un altro intorno al 9.25, chi è avanti, chi ha chiamato? Allora io ho voluto dire che la Lazio ha pareggiato sul rigore adesso al 18°, sto guardando la partita, continuate pure, dai, io sto guardando la partita, ciao Roberto, Carlo e Claudio da Muros, continuate pure, poi vedrò se rientrare, non lo so, comunque in tal caso ritenetevi salutati, ok? Infatti ti ho richiamato, questo, anche se devo dire una cosa, sei un po' troppo alto di radio, Giulia, abbassa un peluzzino se è troppo forte come radio, perché il segnale probabilmente come hai toccato qualcosa è sollevato anche il Mickey Gay, sei 9.25 qua da me. Comunque è andato male anche io in sottofondo, con un occhio la radio, con l'altro che sto guardando la partita 1-1 sul rigore ineccepibile, stavano protestando, comunque il rigore era chiaro e pulito. Ok, salutiamo a Giulio, Claudio saluta a Giulio e Carlo se l'hai ascoltato Iter. Sì, questo è il mio, si saluto a Giulio, ciao Giulio, buonasera, ben sentito, buonasera Giulio, e anche io adesso mi appresto a vedermi un pezzettino di partita. Ma rispetto all'altro giorno hai fatto qualcosina tu e Carlo, perché sei quasi 9.40, ti ripeto, serve una bomba qua. Ho ruotato leggermente l'antenna. Sei quasi 9.40, infatti almeno nella parte mia arrivi un pochettino, un pelutino più forte di prima. Prima eri 9.35, adesso con i picchi arrivi a 9.40. Sì. Vuol dire che va meglio così. L'altro giorno infatti c'era un pochettino di propagazione anche ieri sulle bande laterali, ho fatto diversi collegamenti sul nord Italia, Padova, Torino, ma li sentivo a bomba e anche loro mi sentivano lo stesso bene. Ok, vediamo se Claudio Di Muro ti ascolta meglio o peggio delle altre volte. Santiago 5, Roberto, Santiago 5, Radio Super 5, quasi su, diciamo, e quasi su arriva a Carlo, sta andando molto bene. Collegamento anche in un 10 perché è calata la propagazione, sicuramente era una bella propaganda. ti sento qua, mi arrivi come Santiago di 7.5 e la radio è di 4, ti sento chiaramente abbastanza bene. Sì, 5.7 Carlo, sì, grazie per la porta di Santiago, sì, anche ti ascolto bene qui a Muro, c'è un po' di distanza, c'è nel suo salone Bodo di Cune, perché lo state bene che modulando via Sassari e capito, lo stesso, però che sarei molto distante da Roberto e va via Roberto, lo ascolto molto forte anche perché siamo molto vicini come zone, nonostante che sono la montagna tra di scala di gioca, però io riesco a arrivare bene a lui e lui riesce a arrivare bene a me, quindi Roberto. Sì, sì, diciamo, non ci sono problemi, hai avuto problemi con te, ma raramente con qualcuno, raro proprio che non riesco ad ascoltare, persone che ascoltano gli altri, a meno che non ce li hanno sotto casa col portatilino, ma direi massima, non per vantare la stazione, ma tira fuori quasi tutti, quelli che ascoltiamo tutti in generale a Sassari. Cosa volevo dire, Carlo, tu hai un indicatore di segnale di quelli a LED o a lancetta? Allora, io l'indicatore a LED e praticamente mi arrivi a fondo scala 10 più 5 tacchette. Ma qui sono, a me sinceramente questa radio, neanche un'altra di quelle radio un po' più serie di nuova generazione che ha questi indicatori a barre, anche se disposti dentro un arco, diciamo un semicerchio, però preferisco sempre la lancetta, a me la lancetta chissà perché mi piacciono di più su questo tipo di utilizzi, se parliamo di registrazioni e hi-fi e cose del genere è sempre più preciso avere una barra fluorescente oppure a LED, però quando devi dare un segnale qua di radiofrequenza preferisco sempre avere l'ago, è un po' più lento come salire, però rimane riesce più visibile, dai, per quell'istante in cui ti arriva il picco. Eh sì, ma io ho dovuto fare i compromessi con lo spazio, quindi questo è un display piccolino e quindi ha tutto concentrato là e lo so, gli aghi sono la cosa migliore, l'unico ago che ho è del diciamo strumentino che ho sopra la radio che mi misura i watt o il ROS dell'antenna. Mentre sicuramente non è dubito la radio di Claudio, considerando l'età e il periodo costruttivo, sicuramente al 100% ad ago. Sì, su quel cellulare, ma è qualche loro lo svizzero, il Contas, questo è del 1975, capito, ne ho tre di questi Contas 25P, punto altri Contas, sopra la Lafayette, sul 35, il marchio se li possiedo, Roberto, il marchio se li ho tutto da sistemare, il 25P anche tutto da sistemare, questi invece sono completamente funzionanti, però questo che sto usando adesso è il modello diverso, quindi per questo codice 25P perché è diverso dall'altro, perché monta una valvola di ricezione più piccola, diversa da quella che monta l'altro, c'ha dei fori sotto il pannello per apprezzare, vabbè, quindi è diversa, se poi possiedo anche una ricastine con tutti i canali sopra la valvola, quella americano proprio, e anche poi americana, però quella è più americana di questa, perché mi sono stati importati in Europa con la radio all'epoca. Questa è l'orologio svizzero, perché quando schiaccio la portante mi dà 5 watt, guardo il rosmetro e la scala del rosmetro corrisponde a quella che mi dice la parata, capito? Questo l'orologio svizzero che sono altri proprio tutti al millesimo mi dà, e sono precisi a quelli che mi dà la radio nuova, quella professionale. Proprio questa per avere le carte c'è una ricezione favolosa, forse la migliore che possiede. Riprendi Carlo. Sì, che tipo di antenna stai usando, Claudio? Io la mia è in orizzontale, non è in verticale, è un dipolino non con troppe pretese, insomma. Sì, questo è il Carlo, ci riprendo io. Allora, io sto usando un'antenna verticale, cinquetta di onda della Sigola, il Tornado si chiama il modello, è una cinquetta di verticale, però non è un granché, perché rispetto a una Mantova 5, una Mantova Turbo, una Grazioni di quelle nuove, non è da paragonare a quelle, è un'antenna molto economica, credo che costi sui 95 euro, quella che sto usando io, però la faccio con questa antenna, ma non è male, diciamo, capito, rispetto agli altri antenne, perché prima avevamo una Mantova 5 che è stata tirata giù, però era nettamente superiore rispetto a questa, riprendi Roberto. Il problema della tua antenna è probabilmente diretta non riesce a irradiare quello, il rendimento non è come dovrebbe essere, perché è troppo montata troppo vicino al tetto, per cui deve dare un po' di calo per cercare di farla irradiare un po' meglio. Comunque, da parte mia, ripeto, tu sei sempre arrivato oltre 9, adesso sei quasi 9 più 20, per cui non ci sono problemi, però magari per farsi sentire da qualcuno di quelli che hanno antenne di situazioni un po' più critiche, magari se sollevi appena appena arrivi forte anche da loro. Ok, di nuovo a te Claudio. Io ti sentivo sempre, tu sicuramente perdevi il mio segnale come ero in mezzo ai palazzi, perché ovviamente l'antennino che ho sulla base magnetica non è delle più performanti, insomma, come antenna. Qua a casa invece riesco ad arrivare bene un po' in tutta la città con l'antenna che ho piazzato, vado anche oltre, quando c'è propagazione in banda laterale riesco a fare collegamenti diversi anche oltre oceano. Una dittatura in Marocco, però c'è un po' di attenzione per il discorso della censura eccetera eccetera. Sicuramente in altri paesi tipo Egitto e cose del genere neanche a parlarne per radio. Marocco forse è uno dei paesi più liberi insieme alla Tunisia come libertà di parola, però sei proprio al limite limite. Qualche giorno fa addirittura ho collegato l'Indonesia, parlavo con questo Bernard, con i canali normali CB però in banda laterale, e mi sentiva benissimo anche lui, poi il collegamento è durato una decina di minuti e l'ho perso, però l'attimo che ho, diciamo, sono riuscito a parlare con lui, mi sentiva con un Santiago addirittura di 7, ho collegato poi anche Stati Uniti, North Carolina, lo stesso segnale, con lui mi sono trattenuto di più perché io me la cavicchio un po' con l'inglese, insomma collegamenti se sto riuscendo a farne con questa polarizzazione orizzontale. Riprendo io, una domanda, che tipo lo stai utilizzando, cos'è, che lunghezza, cos'è, mezz'onda? Allora, questo è un mezz'onda il mio, è, un, e dell'Assirio, il classico SD27 dell'Assirio, è molto semplice. La dimensione del cavo, che cosa, con cosa è fatto? Con una, diciamo, tipo una dimensione di un RG58 o più sottile il cavo? No, io ho il cavo, quello grosso, l'RG213, quello della Paolo 8, non mi ricordo come si chiama, Paolini. Messi e Paoloni. Esatto, Messi e Paoloni, lo sto leggendo adesso. È un cavo nuovo che ho preso, 10.3400 c'è scritto. È un po' rigido, difficile da piegare, però sta andando bene. No, no, parlavo di Polo di per sé, che dimensioni di cavo utilizzano? Uno spessore basso oppure quello per alta potenza più grosso? No, allora il mio dipolo non è fatto con col cavo, è praticamente alluminio rigido, capito? È disteso e praticamente devi sfilare i tubi interni e poi li devi fissare prima di metterlo, ha una lunghezza totale di oltre 5 metri ed è messo dal piano del tetto oltre 4 metri. Ah, non è un affilare quindi, no? Io pensavo che c'è un dipolo filare. No, negativo, è rigido, non è il classico filare. Ok, per quello che c'è un rendimento molto molto elevato, non immaginavo, infatti ho detto cavolo, per arrivare a fare questi collegamenti, soprattutto condizioni di polarizzazione opposta a quella solita, noi siamo verticale e tu stai utilizzando la polarizzazione opposta in verticale, sta andando alla grandissima, non alla grande di più. No, io il collegamento più grande che ho fatto, più grande nel senso più importante, a lunga distanza l'ho fatto con la Terra del Fuoco, non sapete, il Capone, la parte bassa del Sud America, pochi, penso, qualche migliaio di chilometri dal Polo Sud, con questo faro, gran direttiva lui, un guardiano del faro di lì, io l'ho fatto di notte, ma lì non so che orario erano, perché l'ho fatto verso le 10 di notte, una decina di anni fa, lui era con 3 kW, siamo stati più di un'ora a parlarlo, in diretta, lui ci aveva la diretta, aveva puntata sull'Europa, stiamo parlando di migliaia e migliaia di chilometri, perfettamente pulito, l'ascoltavo perfettamente, ed eravamo in diretta, nel senso non in banda laterale, in cose neanche normali, lui aveva una direttiva con 3 kW, io l'ascoltavo fortissimo e lui mi ascoltava bene, non mi ricordo il centiavo che mi ha dato, però mi ascoltava perfettamente, io ancora di più. Immagino, quello è sulla punta estrema dell'Argentina, praticamente territorio dell'Argentina, la Terra di Fuoco, quindi è distanze considerevoli. Ecco, 2-1 per la Lazio. Ehi, allora vi sale. Ma io sono contento, non la posso vedere la Lazio, ma sono contento per l'Inter che perde. A me si stanno affarrando. Ecco. E lo vedi a cosa? Antonio. Già la Lazio senta sentite avanti Antonio. Buonasera, buonasera a tutti. A me, allora. Beh, Antonio. Ok, in compagnia mia Giulio che ci sta facendo da telecronista, anzi radiocronista in questo caso, ci dà, tiene informato dei risultati. Io vabbè, la partita la sto guardando in diretta col telefonino, poi c'è Carlo e Claudio D'Amuro. Se ti rilancio prima Claudio che è più lontano e poi passerà il mic a Carlo. Avanti Claudio per Antonio. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito, cordialità anche a te, sì, ti ascolto con un Santiago di 8 e una radio di 5 D'Amuro, riprendi Carlo. Buonasera Antonio, ben sentito, magari mi senti per la prima volta a me dopo tanti anni, niente, ti sento molto bene, non so da dove stia trasmettendo, qual è la tua zona, però mi arrivi fondo scala anche qua. Addirittura fondo scala, zona Corsovico, non lo so tu da che zona stai trasmettendo, comunque qua sei quasi 920 e radio 5. Io sono su via Luna e Sole Alta, qua, all'altezza del Bulling quasi. Ma sei quasi 920 sei qua. Addirittura fondo scala, in ora buona. Io ti ricevo così, tutta, si colora tutto quanto. Kappa. Allora sarà così. Grazie Giulio dell'intervento e l'aggiornamento della partita, Forza Lazio. Kappa, io faccio un attimo di bianco che tra un po' si deve mangiare, dai, continuate voi, mi ha fatto piacere, ma forse ti ho sentito anche l'altro giorno. Che c'è giucucciù. L'ho sentito anche io, avanti il giucucciù. Antonello facendo il furbo. Antonello tu sì. Roba Antonello, no, cacchè tu che sei furruggenti. No, segnale è 9, l'altra me l'arriva a 9.50, però Mari sta facendo qualche giochettino. Antonello, tu sei? Boh, non lo so, no. 9.50 ti arriva. Antonello arriva a 9.50, è vicino a me. Ma chi sono le robe 9.50, no? No, vai, ci sentiamo dopo. No, qua sta arrivando 9 per ciucucciù, quasi 9, dai. Ok, avanti di nuovo a Tremuro, se puoi, Carlo. Sì, può essere un aereo, ma sì, sì, da un mio lanciato, approfitto per salutarvi, perché devo attaccare un altro apparato, e un spot di frequenza che devo fare della prova con un'altra radio che sto sistemando, ma mi ha fatto piacere, vi ringrazio. In queste ore saluto a te, a Carlo, a Antonio e tutti quelli che ci sono in ascolto. Io passo in così diretta con altre frequenze che devo fare di lavoro in un'altra radio. Mi ha fatto piacere, vi super saluto a tutti e vi auguro una buona serata a tutti, a te il cambio, Roberto. Sì, sì, grazie del questo, dai, non c'è problema, sempre un piacere, quando vuoi siamo qua. Avanti Carlo. Grazie del questo Claudio, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao a tutti. Antonio se n'è andato, mi sa che siamo rimasti solo noi due, Claudio. Roberto. Oh, scusa Roberto, c'è anche Giulio che magari ogni tanto entra a aggiornarci. Giulio sta facendo la radio con noi, no? Non capisco Giulio, se mi ascolti, cosa c'è da protestare l'Inter? Un gol regolarissimo, stavano bisticciando, ne hanno ammonito 4 per un gol regolare, non capisco per quale motivo ci abbiano a protestare. Perché c'era un giocatore dell'Inter a terra, però hanno continuato a giocare sia la Lazio che l'Inter, per cui in quel caso lì era compito dell'arbitro se doveva fermare la partita. È regolarissimo, regolarissimo, è stata confermata la rete, dunque 2-1 per la Lazio al 42esimo più o meno. Aspetta, c'è qualcuno sotto che forse vuole entrare, avanti chi vuole entrare, cioè non si adora la portata, quando stavi parlando tu si sentiva qualche colpo sotto, va bene, dai. Ok, Carlo di nuovo a te il mic. No, continua, vai, perché no, vediamo la partita, poi vedremo, dai. Però non è entrato nessuno, Robè. Niente, mi fa piacere che l'Inter stia perdendo anche a me. Adesso deve perdere anche il Napoli, così facciamo il coso, il terno all'otto. Sei juventino anche tu. No, anzi, non sono juventino, però non mi piace la situazione di queste esaltazioni che hanno loro. Quando vincono sono i più forti di tutti, come perdono la partita, tutti i problemi, hanno perso per colpa dell'arbitro, per quello lì, per il campo, per il pubblico, per il Covid, hanno sempre scusa, per quello a me non mi piacciono le squadre che non sanno perdere. Io sono simpatizzante per il Milan, però non ne faccio una malattia se perde, mi fa piacere quando vince, ma non sono di quei tifosi sfegatati. La Juventus non l'ho mai, non dico sopportata, però l'ho sempre ammirata, perché era l'unica che c'aveva i soldi, era l'unica che riusciva a fare finché non è arrivato il Milan di Berlusconi. L'ho tifata solo quando era in Serie B, perché speravo che rientrasse subito in Serie A per vedere degli incontri, come è successo, e poi già diciamo quasi 10 anni che è sempre al top del top in Italia, per cui c'è solo da ammirare una squadra che si comporta così. Adesso mi piace l'allenatore perché è una persona onesta, non è di quei soliti tipo Conte che hanno sempre da lamentarsi, Sarri e compagnia cantante. Questa è una persona che accetta le sconfitte e sa allenare le squadre. Ok, di nuovo a te Carlo. Chi è questo che... Giulio. No, non è Giulio, è 9.10. Giulio arriva oltre 9.20. Qualcuno ha mandato in diretta la partita. Sì, sì, la Juventus della Serie B mi sa che era allenata da Deschamps allora, che adesso allena la nazionale, ha vinto il mondiale pure. Sì, no, io l'ho tifata nel senso, perché è un controsenso avere una squadra gloriosa e prestigiosa come la Juve, a parte tutto quello che c'è stato, scalcio scommesse, doping, eccetera, eccetera, e l'hanno retrocessa, ma ce ne sarebbe stata anche qualche un'altra probabilmente se non avesse avuto le giuste coperture da retrocedere senza far nome quella che sta giocando adesso. Ho capito, li hanno graziati gli interisti e gli hanno fatto anche i regaloni degli scudetti di cartone, diciamo così li chiamano gli anti di diciamo interisti. Sì, no, quello è assolutamente al contrario, cioè la Juve l'ha vinta in campo, al limite glielo tu lì via il titolo, però non lo dai all'altra squadra, ma stiamo scherzando, tu sei arrivato secondo, qui non sei tu il titolare del titolo, non stiamo facendo una gara di Formula 1, qua stiamo parlando di una crisi classifica di un campionato, tu hai vinto la gara, nel senso il campionato non è come Formula 1 che tu hai vinto perché c'avevi il motore modificato, per cui ti do la penalità, qua non stiamo parlando niente, i giocatori hanno conquistato in campo il risultato, per cui al limite tu glielo togli per altri motivi, però non puoi darlo all'Inter. Ecco, infatti, comunque è ripreso il campionato, la sosta della nazionale, adesso vediamo domani le altre partite, stanotte c'è qualcos'altro, messa alle 20:45. Ma se c'è stato un break, avanti il break. C'è Roberto, c'è anche altri amici, che poi non ho potuto venire attivo. Stiamo ascoltando il nostro CSO e niente. Fammi sapere un attimino se sta arrivando Roberto. Guarda, Santiago 7, ma non capisco quello che dici. Non so se sei critico, avanti. No, Antonio Prozze, aspetta un attimino, cerco di migliorare la situazione. Mi dispiace, se riesci a fare qualcosa, non riesco, sento che parli, però non riesco a capire quello che stai dicendo. Se vediamo a Carlo se l'ascolta, l'hai sentito Carlo? No, sento il segnale Santiago 2, 3 oscilla, però non si capisce niente, non si sente più a malapena. Adesso c'è un altro segnale, avanti che? Lo senti questo segnale? 7-8 ma se forse c'è Giulio, giù tu sei Padre Marzio, chiuso i conti, siamo già al 45esimo. Eia, no, la sto guardando anche io, no, sto guardando come 3-1, perché 3-1? Ho segnato adesso. Sono 90 e 37, siamo ancora 2-1, aspettami, il gol forse, ecco di testa adesso l'ha fatto, no? Io c'ho forse qualche secondo di ritardo. Sì, ce la stai guardando nel telefonino, è di ritardo. Senza gol della Lazio comunque, confermato. Sono contento, dai. No, c'è qualcuno sotto, 9 più 10, e poi c'era quello Santiago 7, che non vuole che sia Cristian, questo che sta mandando segnali strani, avanti che vuole entrare. Ma l'Inter sta perdendo? 3-1 ho perso, dai, è 91esimo. Vabbè, dai, bisogna anche perdere, non bisogna sempre vincere. La Juventus non è che quest'anno sta facendo chissà che cosa, è ancora sotto. Allora voglio vedere un Napoli quando inizia a incontrare qualche squadra forte, perché se adesso ha incontrato a parte la Juve, le critiche, voglio vedere come va a finire. Domani c'è anche Juve, che parte è fatta sia la Roma che la Juve, e adesso alle 9:15 c'è Milan e Verona. Comunque non ha rubato niente, io la sto guardando sul telefonino, non ha rubato niente la Lazio. Adesso l'Inter ruba sempre quando vince, per cui c'è la Juventus, vabbè, la Juventus si sa che ruba sempre, ma comunque vabbè, io dico sempre vinca il migliore, tanto a me non mette nulla in musciacca, che ha presi, che ha vinti, poi come mi può affutti a me. Riprendi, ciao a tutti comunque. Io sento sempre questo segnale 9, 9, 10, che è avanti, che vuole entrare? Se vuoi entrare entra, non so se c'è problemi, avanti, non so se non sia Claudio Lamuro che sta provando. No, poi tanti allo 9, anche a 9 e 10 arriva. Ah, 4, 4, 5. Guarda, hola. Sono in ascolto, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Carlo, riprendi Carlo. Ecco, sì, ha preso Papina oggi l'Inter e ogni tanto vincere come tutte le squadre, d'altronde la Juventus ha vinto per 9 anni consecutivi, adesso si è un po' arenata. Adesso stanotte ci guardiamo il Milan, penso sia una bella partita col Verona se non sbaglio. Sì, adesso c'è stato un break, avanti il break. Chi sei? Va bene, ascolti. Sì che ti ascolto, però sei basso, chi sei? A parole se c'è la voce di chiedere qualche attore di controllo. Niente, ascolto con il vostro questione, niente, sono entrato in sessione per te, ho saputo appunto cosa è successo, un abbraccio. Ah, grazie Anto, come sei così basso? Sono piatto. Non sei a caso. Dove posso sempre passare in officina, ci facciamo una chiacchiera accanto quando non hai gana. Non ti ho più sentito e visto, dai, che mi fa piacere quando vuoi passa. Ma volentieri, dai. Un saluto a tutti gli amici circolare. Niente, sì, sono a casa ma sono con il solito apparato. Cosa prova? Anche a Claudio che ho riconosciuto. Sì, va, saluto. Ti ha salutato comunque qua. Tu dice che non riesci ad ascoltare, anche io ti sento un basso, 7, però sei in mezzo al QRM, radio di 2-3 ti do. Ok, Anto, quando vuoi passa che mi fa piacere. Ti saluto, un abbraccio grande, grazie del pensiero. Volentieri, a tutto circolare, ci sono con un apparato di fortuna, vai, sono dentro casa, ciao. Ok, Carlo, non so se l'hai sentito, Anto. Lo sentivo più fio, però era incomprensibile per me, sentivo la portante, ma non andava più di Santiago 3.5-4. Va bene, dai. Ok, chi è rimasto qua? Ci siamo io, tu Carlo, Claudio in QRX, Giulio che si sta guardando la partita lo stesso in QRX, Luca, non so se c'è ancora, avanti Luca. Saluta una grotta, ma non è...